Fonte Radio. In diretta da Radio Neanderthal, Ponte Radio, spazio condiviso tra 7 radio autogestite, Onda Russa, Quar, Wombat, Eustachio, Spore, Blackout e Neanderthal, condotto a rotazione ogni venerdì dalle 13 alle 15 a segnali unificate di tutte le radio che lo compongono. Oggi tocca a noi di Radio Neanderthal, buon ascolto! E quindi, come vi dicevamo, siamo in diretta da Radio Neanderthal. Prima di iniziare, però, ci sembra doveroso e opportuno comunicarvi quello che sta accadendo nelle ultime ore a Napoli, perché ieri il movimento disoccupati 7 novembre ha dato vita a una protesta molto accesa. Ci sono stati degli scontri in piazza a ridosso del comune perché il cosiddetto click day, cioè ovvero il processo per cui i disoccupati 7 novembre ieri avrebbero dovuto partecipare tramite una piattaforma a un processo per l'assunzione delle platee nell'ambito di lavori di pubblica utilità, ieri si è completamente intasato e ha prodotto quindi l'impossibilità per i disoccupati a iscriversi all'interno di queste graduatorie. Il blocco della piattaforma quindi ha prodotto una forte rabbia che è scaturita in scontri, in una protesta molto forte, dove il movimento disoccupati è venuto a contatto con la polizia. Ci sono stati 10 feriti tra i compagni e ben 3 arresti. E oggi, stamattina alle 9.30, era previsto un presidio fuori al tribunale a Piazzale Cenni dalle 9.30, perché i 3 compagni arrestati sono stati processati per direttissima. E notizia degli ultimi minuti è che fortunatamente i 3 compagni sono stati tutti assolti. Noi ci tenevamo a fare questo aggiornamento, abbiamo atteso le ultime notizie e adesso, con questa bella notizia, perché la lotta può continuare, possiamo andare avanti con il programma di oggi, che prevede la tematica Le strane coppie. Iniziamo con Presi a calci, la storia di Jorge Andrade e Josephine Becker alle Olimpiadi del 2024. Allora ci siamo in diretta con Aramis e il nostro metallo. Vai con la sigla, maestro. Napoli, la mia Napoli. Salve a tutti e a tutti qua dalla regia di Santa Fede liberata qui a Radio Neanderthal per il Ponte Radio di oggi venerdì. Quest'oggi vi parleremo in questa fantastica trasmissione Presi a Calci, che parla appunto di calcio, politica, ma anche di calci e politica, che sarebbe anche più interessante. Vi parleremo della storia rovente infuocata tra José Leandro Andrade e Josefine Baker, che per chi insomma non li conoscesse adesso vi spiegheremo tutta la storia. Siamo contentissimi per le assoluzioni per direttissimo in questo caso delle compagne e dei compagni dei disoccupati organizzati, quindi iniziamo questa trasmissione proprio scoppiettante. Quindi dicevamo, cosa hanno in comune José Leandro Andrade, il giocatore più forte dell'Uruguay degli anni 20 e 30, cioè il giocatore più forte della squadra più forte degli anni 20 e 30, e Frida Josephine McDonald, anche conosciuta come Josephine Baker, la ballerina più ammirata di Parigi negli stessi anni e soprattutto medaglia d'oro della resistenza antifascista in Francia, anche se gliel'ha consegnata quel cane colonialista di De Gaulle, però comunque lei è stata medaglia d'oro per la resistenza antifascista. In comune hanno Parigi nel 1924, che è la città europea più incredibile, più viva, dove succede di tutto e di più, dove sono passati tutti, passano e sono passati tutti i più grandi scrittori, pittori, artisti di quell'epoca. Pensiamo a Hemingway, Scott Fitzgerald, Picasso, Dalì, eccetera, eccetera. Hanno in comune questa Parigi e un locale sui Campi Elisi, o gli Champs, i Campi Elisi l'abbiamo detto un po', no? Come piacerebbe alla destra di questo paese, i Campi Elisi, però gli Champs Elisi. E hanno in comune questo locale sugli Champs Elisi dove Josephine Baker si esibisce. E che Andrade, quando arriva con la nazionale dell'Uruguay a Parigi nel 1924 per le Olimpiadi, va a visitare proprio per poterla incontrare. In più, se vi andate a vedere le foto, sono due persone fighissime. Andrade, un pezzo di Cristiano esagerato, lei peggio mi sento. E oltre ad animare quelle notti della Parigi, Andrade diventerà uno dei protagonisti assoluti delle Olimpiadi del 24. Adesso ci andiamo a sentire subito un pezzo, senza pensarci proprio, dei Mano Negra, che Parì la nuit. Personne pour hurler la nuit, que le vieux clochard sous ton mari. Dans la rivière, plus des matons, tous les apaches sont en prison. Il est si calme, ça sent le pourri. Paris va crever d'ennui. Restons s'il vous plaît. Paris se meurt aujourd'hui. C'est la ronde de nuit. c'est la ronde de nuit. Bébert et Wally. Ed eccoci di nuovo in diretta su Radio Neanderthal per questo ponte radio meraviglioso di questo venerdì 11 luglio. Stavamo parlando di Josephine Baker e di Leandro Andrade, ma in realtà questa storia la pigliamo proprio alla larghissima perché avremmo poco da raccontare, a parte la loro rovente storia d'amore come viene raccontata su alcuni giornali francesi dell'epoca. Partiamo dal 1830, che sembra lontanissimo, in realtà non lo è. Che succede? Che nel 1830 l'Uruguay diventa la Repubblica Orientale dell'Uruguay. Beh, orientale perché sta a oriente del Rio della Plata. E gli argentini, che erano proprietari di quei possedimenti, soprattutto che venivano usati per il bestiame, si arrabbiano di brutto. Il presidente dell'epoca, che è questo tizio che si chiamava Rosas, come l'amico del poliziotto nei romanzi di Sarti Antonio di Loreno Machiavelli, per chi insomma ha letto questi romanzi, il presidente Rosas manda l'esercito in una battaglia, la battaglia decisiva, diciamo, per l'indipendenza o no dell'Uruguay, si tiene a Salto, che è la città più grande di confine tra i due stati. L'esercito argentino è più forte, è più armato, c'è più gente, è sicuro di vincere, ma gli uruguaggi hanno un, come spesso capita nella storia dell'Uruguay, poi in realtà hanno un jolly, no? Hanno un personaggio e schierano questo tizio che ha una barba folta, gira col poncio. Politicamente è un ingenuo da paura, diciamo, se mi perdonate la semplificazione, però come stratega militare insomma sa il fatto suo, ed è un tizio che si chiama Giuseppe, che però tutti lo chiamano Peppino Garibaldi, che combatte questa battaglia per conto dell'Uruguay e in realtà la vince e, diciamo, sempre veramente semplificato, e l'Uruguay conquista la sua indipendenza. I politici uruguagi redigono una costituzione incredibile per l'epoca, viene abolita la schiavitù, c'è parità di diritti tra bianchi e neri e c'è pure il divorzio. Ovviamente poi in queste situazioni spesso funziona così, no? Nel senso che ci sono nazioni che vogliono affrancarsi dall'essere una colonia e quindi avere queste costituzioni così aperte, no, è un invito, no, a tutte le fasce di popolazione marginate, marginali, sfruttate, eccetera, a venire insomma in questa nuova nazione per renderla più forte e grande, e quindi si cerca, no, di raccogliere la platea più ampia possibile. Immaginiamo che anche negli Stati Uniti, quando si volevano affrancare dalla colonizzazione europea, quindi soprattutto da francesi, inglesi, eccetera, si portarono in giro per mezza Europa gli indiani, dicendo: ah, vedete, anche noi abbiamo una nostra cultura, mentre li sterminavano in patria. Uno dei primi genocidi, diciamo, organizzati e riconosciuti, si portavano in giro queste persone. C'è una bellissima, interessantissima racconto rispetto a questa cosa sul libro di David Graeber, che è L'alba di tutto, che parla appunto di una di queste di questi viaggi degli americani, degli statunitensi con alcuni indiani. Comunque, 100 anni dopo la battaglia di Salto, l'Uruguay è la nazionale più forte del mondo, e proprio 100 anni dopo si giocherà, e poi sì, parleremo anche delle Olimpiadi del 24, si giocherà la prima finale di un mondiale di calcio organizzato dalla FIFA proprio in Uruguay, tra i padroni di casa e l'Argentina di Luisito Monti, che i francesi, quando andrà alle Olimpiadi del 24, battezzeranno sui giornali le carnicerò, cioè il macellaio, cioè era uno che non ti lasciava la gamba a terra, insomma, se gli davi fastidio. La partita che si giocherà 100 anni dopo la battaglia di Salto, e poi Salto ritornerà nella nostra storia, si giocherà nello stadio del Centenario a Montevideo, che è proprio lo stadio dedicato ai 100 anni dell'indipendenza dell'Uruguay, e gli uruguagi vinceranno 4-2, e il primo e l'ultimo gol del mondiale lo segnerà, per farvi capire anche come era aperta la società uruguagia dell'epoca, lo segnerà Héctor Castro, che è stato il primo giocatore senza un braccio a calcare i campi di calcio. E ora ci andiamo a sentire un'altra canzone, perché a noi qua su Radio Neanderthal ci piace chiacchierare, ma ci piace anche sentire un sacco di musica. Ci andiamo a sentire Everything Is Coming Our Way dei Santana. Brand new day, fresh new way to live the morning. Ed eccoci di nuovo in diretta su Radio Neanderthal. Qua ci siamo scordati i saluti drammaticamente. Salutiamo tantissimo Zach che ci ascolta da Marsiglia. Ciao, ciao. Ciao Zach, ciao. Ciao. Salutiamo, devo salutare anche una persona. Saluto anche Sergio che ci segue sempre da Mendoza in Argentina, che è un posto fighissimo. Mandaci qualche bottiglia di vino, per favore. In più, visto che siamo sul nazionale, io vorrei ricordare la nostra casella di posta di Radio Neanderthal. La casella di posta è intestata a Sir Scott da Lancaster, protettore dei numeri 4 come gli scudetti del Napoli. E salutiamo tutti i tifosi della Juventus, dell'Inter che ci ascoltano con grande affetto e amicizia. Dai, dai, battete un colpo se ci siete, fateci sentire, fatevi sentire. Esatto, esatto. E poi di solito qua su Radio Neanderthal abbiamo anche sempre l'angolo dei sondaggi, in questo momento della trasmissione. Uno dei sondaggi che oggi lanciamo, diciamo, abbiamo lanciato già uno dei sondaggi più famosi, che adesso che siamo sul nazionale possiamo lanciarlo, è: che cos'è l'aneto? E questo è, ognuno di voi può rispondere sulla chat delle varie radio, c'è eccetera, la chat eccetera, che trovate sul nostro blog, quindi potete interagire con noi in diretta. Sì, poi il premio sono sigarette di contrabbando di Forcella, rigorosamente, e birra calda Peroni. Scusate per lo sponsor, ma quello insomma, che preferite, insomma. No, no, no, Peroni calda. Peroni calda, amicizia lunga, come recita un famoso slogan. Comunque, ritorniamo a bomba su la storia che stavamo raccontando di Andrade e Josephine Becker, anche se in realtà ne abbiamo parlato pochissimo adesso. Ma andiamo a bomba su che cos'era l'Uruguay in quegli anni. Insomma, negli anni 20 l'Uruguay è un posto in realtà particolare. Appunto, abbiamo raccontato della sua costituzione. Montevideo, che è la capitale dell'Uruguay, conta circa 600.000 abitanti, di cui più di un terzo sono neri. E uno dei motivi per cui c'è una popolazione così ampia, a differenza delle altre capitali dell'America Latina, ad esempio di Buenos Aires, per dirne una, piuttosto che di Santiago, del Cile, eccetera, c'è sia il fatto che appunto la schiavitù viene abolita con la Costituzione del 1830, e anche se ovviamente sicuramente esisteranno una serie di diseguaglianze esagerate, insomma, ci sono tranquillamente, insomma, varie testimonianze rispetto a questa cosa. Però se fate conto che la schiavitù è già stata abolita, e per esempio in Brasile la schiavitù viene abolita alla fine dell'Ottocento. Mo anche qua non è che i governanti uruguagi erano particolarmente avveduti, simpatici, compagni, amici della rivoluzione. Diciamo, semplicemente non avevano bisogno di schiavi più di altre nazioni. La maggior parte delle persone ricche in Uruguay sono proprietari terrieri, proprietari di bestiame, quindi non hanno la piantagione, che è proprio il sistema di organizzazione economico che crea la schiavitù, e quindi possono ritenersi tranquillamente un paese vagamente più libero degli altri. Andrade, che è il nostro, dovrebbe essere il protagonista della nostra storia, nasce proprio a Salto, quell'Asalto dove si è combattuta la battaglia per l'indipendenza dell'Uruguay, ed è figlio di uno stregone brasiliano 91enne che si chiama José Ignacio Andrade, detto il brasileiro, molto semplicemente, in Uruguay, e di una 25enne argentina che si chiama Anastasia. Non sappiamo quasi nient'altro rispetto a questa cosa. Negli stessi anni Josephine Becker invece è nata in una famiglia non benestante ma neanche troppo povera a St. Louis negli Stati Uniti, ma lavora fin da ragazzina nei locali come cameriera, e piano piano, essendo una bellezza dirompente, come anche Andrade, comincia a lavorare come ballerina, soubrette e ovviamente cantante. E pensando a quei locali, a noi ci è venuto in mente di sentire questo pezzo di Vinicio Capossella, che è all'1:35 circa. Un'altra volta bionda, la serata sta finendo e servi la mia birra dietro il bar. Negroni, whisky, coco, un campanino con la soda e il ghiaccio, figo, il rusco, c'è da cambiare pure il fusto. E il cliente già servito e la cassa registrato, l'ultimo drink all'avocado. A se passasse così in fretta come ora che è finita questa serata maledetta. Per 50.000 lire un altro giorno da finire tra negroni, whisky, trucco, un arghile con il tabacco, qualche pizzo nel cappotto per finire sotto il letto, ma ti ricordi che hai servito dietro il bar? Scime, Bacardi, Jamaica, Rum, White Lady, Max B, Tequila, Boom Boom, Dredgen, Charenton, Flores, Bourbon. Sono state storie interessanti di risate in mezzo ai denti, di amori messi sotto spirito affogato, di vecchi camionisti un po' rivisti, un po' alcolisti, con la moglie lasciata a casa ad ingrassare. avventurieri di frontiera che non sanno passare il sabato sera senza finire ad ubriacarsi dentro un bar. Che strana razza è poi il cliente, c'è quello bello intelligente, c'è il casinaro l'invadente. Ma c'è chi ascolta trasognato, c'è chi urla e sta sbracato, c'è chi la donna se l'è intorta, c'è chi gli fa la mano morta. Ma il cliente più divino, il più richiesto ed invitante, quello che offre, paga a tutti e fa il brillante. Scime, bagarre, c'è mai cambù. White leather, back speed, tequila, boom, boom. Dragon, Charenton, Furos, Bourbon. Denaro perché la roba costa caro, ma l'arte è cosa sacra e seria da salvare. Per 100 sacchi alla serata facciamo una vita sregolata, ma il grande mito ci ha fregato che sei un eroe se sei suonato. E per ultima la strofa più dolente, quella hai messo l'esercente. A dietro il banco nell'ufficio intellettuale ben vestito, lui guadagna sempre poco, tasse, IVA, forniture. Mamma mia quante paure, con gli incassi son dolori per pagare i suonatori. Pagare i suonatori, scime, Bacardi, Jamaica, boom. White leather, black speed, tequila, boom, boom. Dredging, Charenton, for us, bourbon. Ed eccoci ancora qua in diretta, la stiamo tirando per le lunghissime con questa storia di Andrade e Josephine Baker, ma ripartiamo subito con questa storia delle Olimpiadi del 24. Prima del Mondiale del 1930, il Mondiale appunto che si gioca nello stadio del Centenario a Montevideo, le Olimpiadi sono considerate il vero Mondiale per le squadre nazionali, no? Adesso sappiamo che le Olimpiadi, soprattutto per quanto riguarda il calcio, sono giocate dalle nazionali under 21, quindi in teoria non professionisti. All'epoca ovviamente il calcio professionistico come lo immaginiamo adesso non esisteva, e le squadre nazionali appunto si incontrano nelle Olimpiadi. E visto che in realtà la FIFA non riesce ad organizzare un mondiale, cioè ci provano varie volte a organizzare questo benedetto mondiale, addirittura provano ad organizzarlo in Svizzera una volta, ma non si iscrive nessuno, si iscrivono due squadre, si sa perché, una è la Jugoslavia e l'altra è la Francia, cioè questo che bisognerebbe poi aprire tutto un discorso sulla nazionale, anche se noi abbiamo fatto un fantastico podcast che vi invito ad andare ad ascoltare sul calcio slavo, vi invito ad andare ad ascoltare sul sito radioneandertalnoblogs.org. Comunque dal 25 maggio al 9 giugno del 1924, proprio a Parigi, la città che stiamo raccontando, si svolgono le Olimpiadi e arrivano atleti ovviamente da ogni continente. E questi atleti, ovviamente siamo appunto nella città cosmopolita per eccellenza, no? Del divertimento. Tutti questi atleti si riversano spesso in locali e gli spettacoli che guardano, ripeto, siamo nel 1924, sono assurdi, sono incredibili, sono, è la prima volta che possono vedere ballerine, prestigiatori, fiumi di champagne che scorrono, e ovviamente poi in quel periodo c'è una quantità di droga esagerata che ci fa invidia un sacco, insomma, diciamo, almeno per me, se posso permettermi. E a Parigi, sempre in quell'anno, arriva la più forte nazionale di sempre, probabilmente, o comunque una delle più forti, che è l'Uruguay, allenata da Ernesto Figoli, con Masali in porta, che è uno dei più grandi portieri della storia del calcio, un tizio che si chiamava Nasazzi, che veniva detto anche il terribile o il marascial, che sta di fatto al centro della squadra, è un difensore, ma è come se fosse un libero. Chi si ricorda, chi c'ha un'età e si ricorda Franco Baresi, insomma, Franco Baresi però 10 volte più cattivo e 30 volte più potente fisicamente. Si racconta che tirasse dei colpi di testa dalla sua area che arrivassero nell'area opposta e se il pallone era bagnato era ancora peggio, anche perché poi in quegli anni si giocava un pallone diversi, soprattutto argentini e uruguaci che non erano d'accordo quasi su nulla, giocavano sempre con palloni diversi. E poi però in questa squadra ci sono anche appunto Andrade, Scarone e Petrone, che sono due degli attaccanti più forti di sempre, e appunto Héctor Castro, che segnerà il primo gol e l'ultimo gol di questo mondiale, il giocatore che aveva perso un braccio in una segheria di Montevideo. Questa squadra vincerà due Olimpiadi, un mondiale e tre Coppe America, e soprattutto creerà nel linguaggio uruguaiano una frase, cioè entrerà questa frase che è diventata famosa, che è stata detta tra due giocatori di questa squadra, che sono Borges, che non ha niente a che fare con lo scrittore e intellettuale argentino, e Scarone, che i due sono stati grandissimi amici, poi a un certo punto hanno litigato tantissimo, non si sa come mai, ma si odiano, non si rivolgono la parola, forse è un fatto di soldi, forse è un fatto di donne e whisky, non lo sappiamo, abbiamo letto vari articoli ma non si è capito bene poi la motivazione. Comunque, quando Borges lancia Scaroni per il gol della finale del 3-2 con l'Argentina nel 1930, gli urla Tucha Herman, che rimarrà, pare, nel linguaggio uruguagio, perché quando vuoi mettere a tuo agio una persona con cui hai litigato, se inizi un messaggio, una mail, una lettera, ormai tranne alla nostra casella di posta Sir Scott da Lancaster non ne arrivano più, però insomma, quando c'erano le lettere, se vuoi mettere a tuo agio una persona, si inizia con questa cosa, Tucha Herman, anche se poi in realtà non abbiamo capito bene se gli abbia gridato in realtà Tucha Héctor, che era il nome di Scaroni, cosa che è molto probabile, però poi l'immaginario si crea anche con queste situazioni. Comunque Héctor segna questo benedetto gol del 3-2 e i due si abbracciano dopo il gol e di fatto fanno pace. Ed è rimasta questa cosa. Qui è una cosa che ci dovremmo pure noi segnare. Quindi lanciamo un messaggio positivo da Radio Neanderthal. Se avete un amico o un'amica con cui avete litigato, mandategli un messaggio, scrivete Tucha Herman e fate pace. Dai, ci andiamo a sentire sempre un altro pezzo, perché appunto qua ci piace ascoltare un sacco di musica. La radio la facciamo per questo. E quindi ci andiamo a sentire Giuliano Palma e Blue Beaters con Wonderful Life. Standing Di nuovo in diretta dopo questo pezzo fighissimo dei Blue Beaters e ritorniamo a parlare di questa maledetta Olimpiade del 1924 in cui Josephine Baker e Andrade hanno questa storia d'amore infuocata. Per andare a queste Olimpiadi a Parigi, il presidente della federazione uruguaya, Attilio Narancio, si ipoteca la casa, decide di fare questa cosa perché comunque lui è convinto che è la nazionale più forte del mondo. In effetti poi, tra l'altro, ha ragione. Si ipoteca la casa, la nazionale gioca 9 amichevoli per pagarsi il viaggio, che all'epoca era una cifra assurda di amichevoli. Ormai adesso si gioca praticamente ogni giorno, cioè qualsiasi partita, qualsiasi squadra, però per l'epoca è un'assurdità, no? Anche perché appunto parliamo di giocatori non professionisti, che significa senza uno stipendio fisso, insomma non è il calcio che immaginiamo adesso, no? È il calcio dei pionieri, forse per questo poi è più romantico. È interessante. Quando arriva in Francia, l'Uruguay ovviamente non l'ha mai vista giocare nessuno, sempre a proposito del fatto appunto non esiste la televisione, non c'è internet, quindi arrivano questi tizi strani con questa maglietta celeste. Sì, pare che siano forti, ma chi se ne frega, anche la Francia c'ha una nazionale fortissima. Qui il centravanti è un operaio della Renault che si chiama Laurent, che farà un sacco di gol anche in quelle Olimpiadi e poi negli anni successivi anche nel Mondiale del 30. Arriva questa nazionale, appunto non li conosce nessuno e li prendono anche un po' in giro. Tra l'altro poi insomma, ci sono alcune cronache di giornale che dicono hanno pure 2-3 neri in squadra e un giocatore senza il braccio. Che cacchio sono questi qua? Sono arrivati da Montevideo, questo posto assurdo, esotico per noi parigini che siamo insomma la capitale del mondo, no? Galeano, Edoardo Galeano, uno dei nostri scrittori favoriti qua a Radio Neanderthal e più in generale un po' per tutto il Sud America, ci racconta di questo arrivo di Andrade alle Olimpiadi e praticamente ci dice che diventa di fatto in quell'epoca, ma se vi andate a cercare gli articoli li trovate insomma anche in rete, alcuni sono in francese, quasi tutti sono in francese, arriva questo tizio, questo Andrade, insomma, che comunque è un uomo alto, appunto, come dicevamo, bellissimo, e diventa la star della squadra, anche perché è uno che frequenta i locali, gli piace stare nei caffè, gli piace tirare tardi la notte, eccetera eccetera. E Galeano lo definisce così: questo maccione dal corpo di gomma spazzava il pallone senza toccare l'avversario. In una delle partite delle Olimpiadi attraversò mezzo campo con il pallone addormentato sulla testa. Il pubblico lo acclamava e la stampa francese lo chiamò la meraviglia nera. E qua piano piano ci stiamo avvicinando a quella che sarà poi uno dei pezzi della nostra storia. Comunque si sa che lui appunto è un giocatore incredibile, cominciano a intervistarlo un po' dappertutto, gli chiedono dove ha imparato a dribblare in quella maniera, dove riesce a fare questi scatti assurdi, dove riesce a portarsi questo pallone palleggiando appunto su una gamba sola, sulla testa, per svariati metri, a disegnare degli 8 enormi sul terreno, facendo appunto, scartando gli altri giocatori. E una delle risposte che lui dà è fantastica, perché prende in giro i giornalisti europei che gli chiedono appunto come fai ad essere così figo a dribblare in questa maniera da paura, e lui gli dice no, ma in Uruguay noi ci alleniamo inseguendo le galline, perché qua in Europa non lo fate. Cioè, questa è una delle risposte insomma vi fa capire perché poi Andrade è diventato uno dei protagonisti di quelle Olimpiadi. Addirittura nel 1928, alle Olimpiadi di Amsterdam, la scuola di cinema di Mosca, la scuola di cinema documentario di Mosca, che era quella diretta, per capirci, da Zygavertov, insomma, quello dell'uomo con la macchina da presa, uno dei documentari più incredibili della storia dell'umanità, manda alcuni studenti a filmare Andrade per capire come fa a giocare in quella maniera. Ovviamente poi ci sono tutta una serie di teorie naturalistico-scientifiche, diciamo, che riguardano queste riprese, però in realtà lo mandano a riprendere proprio con un motivo, per un motivo specifico, perché è così elegante e bello da guardare che vogliono immortalarlo, insomma. E poi ovviamente, cioè, bisogna cogliere i movimenti, la velocità, l'impatto sul pallone, che sono tutte queste cose che piacevano tantissimo ai cineasti sovietici dell'epoca. Nelle notti parigine Andrade girava con questo bastone di legno col pomello d'argento, un cappello lungo, lo vedete anche nelle foto, scarpe di vernice e i guanti bianchi, no? Poteva non finire tra le braccia di Josephine Baker, che insomma era la ballerina più bella di Parigi e che era insomma la persona che aveva portato il Charleston e il jazz di fatto, no? Nella città parigina, mischiando poi i due generi anche nel ballo, compresi anche i balli africani, scandalizzando anche i parigini, che erano abituati a vedere tutto. E adesso ci andiamo a sentire un altro pezzo, ci andiamo a sentire Besame Mucho, però nella versione di Emilio Tuero, che è un po' più lenta, ma a noi ci piace tantissimo. E quindi, visto che siamo sempre su Radio Neanderthal e a noi la musica ci piace di brutto, ci andiamo a sentire questo pezzo e poi ripigliamo col racconto. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero sentirte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Ed eccoci di nuovo in diretta qua al Ponte Radio di oggi, 11 luglio, venerdì. Qua siamo a Radio Neanderthal in diretta dalla regia di Santa Fede Liberata a Napoli. E dopo salutare due persone che ci stanno mandando decine di messaggi, quindi le dobbiamo salutare per forza. A parte, dopo aver salutato Zac e Sergio Zac da Marsiglia e Sergio da Mendoza. Salutiamo Marica e Adamo che ci ascoltano dalla provincia sperduta di Monza Brianza, una cosa del genere, tipo Como, un posto assurdo, e c'hanno una squadra di calcio a Como, mi sa pure, no? Però vabbè, a noi non ci interessa questo fatto delle altre squadre di calcio. Vi ricordiamo sempre di scrivere, visto che siamo in diretta nazionale, alla nostra casella di posta intestata a Sir Scott da Lancaster, protettore dei numeri 4 come gli scudetti del Napoli, e salutiamo tutti i tifosi di tutte quante le altre squadre che quest'anno hanno salutato il nuovo scudetto della nostra squadra. Comunque eravamo rimasti a parlare appunto di Andrade, dopo tutto questo racconto sulla sua vita. Insomma, eravamo arrivati a Josephine Baker, che appunto, come dicevamo, mescolava i generi della danza, ma anche musicali, creando appunto un nuovo tipo di ballo, di fatto. No? Alcuni commentatori dell'epoca dicono che, insomma, inventò, anche se lo stesso Scott Fitzgerald diceva che inventò, di fatto, quella persona che ha inventato la modernità degli anni 20, no? È un'etichetta, però insomma interessante per capire che tipo di persona era. Era notissima sui palcoscenici, già appunto prima delle Olimpiadi del 24, era notissima al cinema, aveva già fatto vari film, aveva cantato in decine di spettacoli seguitissimi in tutta Parigi, e ovviamente a quell'epoca insomma c'era una certa libertà, una certa permissività anche sull'identità. E poi non bisogna nasconderselo, comunque lei era americana e nera, appunto non era bianca, francese, bionda, e quindi insomma era più facile tollerare insomma questo aspetto, come le scorribande di Andrade nella stessa epoca. Era famosissima lei anche per il gossip, quello che adesso chiamiamo gossip, all'epoca non so come si chiamasse, insomma, comunque inciuci. Era famosissima perché appunto pare fosse stata addirittura l'amante di Frida Kahlo. Non sappiamo precisamente come è scattata questa passione tra Josephine Baker e Andrade, e in realtà appunto le cronache che trovate negli articoli ci raccontano di queste notti infuocate tra i due, ma ovviamente è per fortuna da un certo punto di vista, insomma la privacy è importante, ne sappiamo il giusto. Ma i due vengono citati con i loro due soprannomi che appunto gli appioppano i colonialisti francesi, che sono la Meraviglia Nera e la Venere Nera. Cioè, e diciamo, nella società parigina francese, che apprezzava tantissimo il talento, l'esoticità, la particolarità di alcuni personaggi, come appunto insomma doveva essere Hemingway piuttosto che Dalí e Picasso che abbiamo citato prima, rimaneva comunque una società suprematista e appunto coloniale. E il calcio, anche in Francia come nel resto d'Europa, ma anche in quasi tutto il Sud America, era uno sport prevalentemente per bianchi, e Josephine Baker poteva permettersi di fare quello che faceva ballando con le collelline di banane, perché di fatto questo era uno degli spettacoli più famosi, anche perché appunto era nera e non era bianca, e quindi non destava scandalo nella società ben pensante dell'epoca, e forse pure di questa epoca, perché non è che siamo molto migliorati, a parte il motore a scoppio, cioè non è che sia cambiato moltissimo, però insomma appunto era una società diversa. Immaginate che il Brasile ammise giocatori neri nelle squadre solo dopo il 1936, che lo stiamo citando sempre per cose male, il Brasile, poi in realtà è un posto bellissimo. E quando qualcuno appunto però deve dare un soprannome a questi due personaggi incredibili delle notte dell'arte parigina, gli viene dato il nome La Meraviglia Nera, con nera come la Venere Nera, appunto per sottolineare diciamo questo aspetto. Qualche anno fa capitò una vicenda simile, perché molta gente, anche diciamo rispetto alla questione del paragonare i giocatori neri agli animali, no? Si creò tutta una cosa, soprattutto qua a Napoli si parlò molto del fatto che Osimhen veniva paragonato a un puma, una pantera, eccetera eccetera, e per dare poi l'idea, no? A proposito di come la società è cambiata fino a un certo punto, uno dei giornalisti, di cui non citerò il nome per non fargli ingiusta pubblicità su Radio Neanderthal, disse: ah, per me è giustissimo, perché se risulta sgradevole che il giocatore nero sia paragonato a un animale, non dobbiamo chiamarlo così. Detto questo, Osimhen rimane un animale. Questo è il virgolettato che disse, insomma, questo giornalista di Napoli, di cui appunto non faremo il nome. Però di fatto appunto questo suffice a dire se la Venere bianca, la Meraviglia nera, di fatto quasi sottolinea che l'originale è bianco, cioè queste sono delle copie a cui abbiamo noi bianchi abbiamo accordato questo privilegio. E su questa cosa che vi ho detto, che ho cercato di essere il più sintetico possibile, ci andiamo a sentire un altro pezzo, questa volta di Pittura Fresca, che ci butta direttamente negli anni 90 di brutto, tra un festival bar e l'altro. che è Papa Nero, appunto, di Pittura Fresca. Rientriamo in diretta qua su Radio Neanderthal. Ci avviamo proprio alla conclusione di questa storia, che abbiamo allungato il brodo tantissimo, come succede sempre in queste puntate di Presi a Calci. Appunto, visto che il pezzo era Papa Nero, salutiamo Papa Prevost che ci ascolta sempre dal Vaticano, perché noi arriviamo lì perché proprio ci aveva chiesto pure di fare la trasmissione su Radio Maria, ma noi abbiamo rifiutato. Io sono anche sbattezzato, quindi c'era un problema tecnico di Jim, va. Però lo ringraziamo comunque, ci fa piacere che ci ascolta. Ciao Papa. Comunque, siamo arrivati appunto alla fine. Come avete capito, gli uruguayani vinceranno questa Olimpiade di Parigi del 1924, batteranno 3-0 la Svizzera in finale, e qualche anno dopo, nel 47, Josephine Baker, appunto Andrade diventerà campione olimpico per due volte, campione del mondo nel 30, eccetera, eccetera, Josephine Baker diventerà medaglia d'oro della resistenza antifascista francese e verrà insignita da quella brava persona di Charles de Gaulle che abbiamo citato prima, e divenne pure capitano dell'esercito, lei, pensa tu, che penso che non gliene fregava più di tanti. Però negli Stati Uniti, che di fatto era uno stato con l'apartheid, ammesso che adesso sia diverso, insomma, con tutte le storie legate ai rimpatri legati all'amministrazione Trump, negli Stati Uniti continuava ad essere solamente una nera qualsiasi. E infatti è famoso un episodio in cui un cameriere, appunto, negli Stati Uniti non volle servirla al tavolo del ristorante se non gli rivolse proprio neanche la parola. Insomma, è famosa questa storia. Morirà qualche anno dopo, dopo un grande concerto che tenne grazie alla sua amica del cuore che era Grace Kelly a Monaco. Lei tenne questo grandissimo concerto nel 52 e la trovarono morta in un albergo in mezzo ai ritagli di giornale che cantavano di fatto questo suo grande successo, questa sua grande rentrée grazie a Grace Kelly. Andrade, se ci pensate, farà la stessa fine, però lui in realtà morirà povero, di fatto in una baracca nella periferia di Montevideo, e le persone che lo troverà lo troverà con i ritagli di giornali delle Olimpiadi del 24, del 28, del Mondiale del 30 e le medaglie che aveva vinto attorno al letto dove appunto era morto. Farà in tempo ancora a fare una cosa importante, perché suo nipote è stato protagonista della finale tra Brasile e Uruguay, che finì 2-1 per gli uruguaci del 1950, nella partita che insomma tutti conoscono come il Maracanazo, la più dolorosa sconfitta sportiva del Brasile, che dopo quella partita addirittura cambierà la maglia, che prima era azzurra, e diventerà quella che conosciamo tutti, che è verde oro. Ultima cosa che non c'entra una mazza con tutto questo racconto di Josefin Baquer, Andrade, eccetera. Gli argentini, che ci tengono parecchio al gioco del calcio, però riescono ad ammettere con difficoltà che il gioco del calcio l'hanno inventato gli inglesi. Fanno un po' fatica, però vi assicuro che è così, Sergio da Mendoza potrà confermarci. Però le grandi giocate che conosciamo adesso, su cui sono stati inventati vari nomi, la rabona, la bicicletta, eccetera, eccetera, le hanno inventate di fatto gli argentini e un pochino qualcosa anche gli italiani. E loro negli anni 20, avendo la maglietta albiceleste, che è la maglietta dell'Argentina, in realtà loro dicevano di giocare un calcio albicelestial, una cosa molto divertente. Nel 24, dopo le Olimpiadi, che loro non sono andati a giocare, gli argentini, decidono di fare una cosa tipica degli inglesi, giocare la partita contro quella che è considerata, giocare un amichevole contro quella che è considerata la squadra più forte del mondo, per ribadire che sono loro i più forti del mondo. Gli inglesi l'hanno fatto sempre, fino a quando non hanno cominciato a partecipare ai mondiali, quindi parliamo del 62, credo, il primo mondiale, dove sono stati anche gli inglesi. Comunque gli argentini giocano questa partita contro gli uruguaci e vincono 1-0 con un gol incredibile da calcio d'angolo, segnato da questo tizio che si chiamava Cesario Onsari, appunto, che segna questo gol diretto da calcio d'angolo. E da quel giorno il gol da calcio d'angolo per tutti in Sud America è il gol olimpico, e lo è tuttora. E quindi su questa notizia, così, che non c'entra nulla con tutta la storia di Josefin Baquer, eccetera eccetera, vi lasciamo, almeno qua da Presi a Calci. Però insomma le trasmissioni di Radio Neanderthal continuano, non siamo noi che siamo razzisti, ma sono loro che sono neomelodici. Questa trasmissione che seguirà a breve, vi lasciamo con Don't Let Me Down dei Beatles. She does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she does, ooh, she does. Yes, she does. First time, don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down. She really done me. Oh, she done me. She done me good. I guess nobody ever really done me. Oh, she done me. She done me good. e ancora in diretta per il Ponte Radio. Cambiamo musica, adesso tocca al sottoscritto Aramis con Non siamo razzisti, sono loro che sono neomelodici. Per il tema delle strane coppie ho deciso di iniziare da una delle strade più trafficate di Napoli, il Corso Secondigliano, che si unisce attraverso Piazza di Vittorio a Calata Capodichino e permette di unire Scampia alla zona dell'Arenaccia, praticamente dietro la stazione di Piazza Garibaldi. È un rettilineo lungo chilometri, inizia con le quattro vie, ovvero un quadrivio, e finisce in Piazza Otto Calli. Qui c'è un enorme murales di Enrico Caruso, il più grande tenore di tutti i tempi, colui che ha reso famosa la canzone napoletana in tutto il mondo. Alle quattro vie, quindi all'inizio di Corso Secondigliano, c'è un altro enorme murales, quello di Vale Lambo, trapper idolatrato da queste parti. Cosa accomuna Caruso con Vale Lambo? Ma soprattutto, cosa è successo nell'ultimo secolo alla musica napoletana? La canzone classica e la trap sono necessariamente contrapposte? Ripercorrendo la biografia di questi due artisti, non vi daremo risposte, ma vi aiuteremo a formulare altre domande. Allora, iniziamo da Caruso, che nasce a Napoli il 25 febbraio del 1873 da una famiglia originaria della provincia di Caserta. I genitori riescono a malapena a sbarcare il lunario, la madre Anna lavorava come donna delle pulizie, il padre Marcellino come operaio metalmeccanico, e il ragazzo cresce nel rione di San Giovanniello agli Otto Calli. Enrico frequenta la scuola fino ai 10 anni, poi segue le orme del padre che lo porta con sé a lavorare. Fortunatamente la madre decide di iscriverlo in una scuola serale, dove capisce di essere portato per il disegno e comincia a progettare alcune fontane per la fonderia in cui lavorava. Questo gli permette di coltivare la passione per l'arte, che comunque trovava massimo attraverso la voce. E infatti nella chiesa di Sant'Anna delle Paludi, a Corso Arnaldo Lucci, che Caruso inizia a cantare. Si parte da una chiesa e pian piano inizia ad esibirsi nei vari caffè, dove si confronta con altre figure emergenti della canzone napoletana. In seguito viene scritturato dalla birreria Strasburgo di Piazza Municipio insieme ad alcuni artisti del caffè Chantante. Proprio grazie ad uno di questi artisti intraprende la via del teatro e conosce il maestro Guglielmo Vergine. Caruso non aveva i soldi però per pagarsi le lezioni, ma Vergine credeva molto nelle qualità del ragazzo e decise di impartirgli le lezioni gratuitamente, pretendendo però il 25% dei suoi guadagni per i primi 5 anni di carriera nel caso in cui venisse scritturato. Hai capito il maestro Vergine? Ma all'inizio la voce di Caruso era bella ma ancora acerba, priva di qualsiasi nozione tecnica, ed è in questo frangente che comincia ad affiorare il suo carattere, una grande assiduità nello studio, precisione e tenacia che lo porteranno a diventare il più grande di tutti i tempi. Well, La sua carriera, la carriera di Enrico Caruso, comincia ufficialmente nel 1895 al Teatro Nuovo di Napoli, con una parte nell'Amico Francesco di Domenico Morelli, che era un napoletano benestante che aveva le risorse economiche per portare in scena le proprie opere. Da qui Caruso inizia il suo cammino, canta il Faust, la Cavalleria Rusticana, il Rigoletto, la Traviata, la Gioconda. In questo periodo conosce il soprano Ada Giacchetti, che sebbene sia già sposata con un figlio, ha con lui una relazione di 11 anni, dalla quale nascono Rodolfo ed Enrico Junior. E adesso stiamo ascoltando Una furtiva lacrima, una delle sue interpretazioni più importanti. Drammatica è la sua voce, tragica, e difatti abbiamo scelto alcune delle tappe fondamentali della sua biografia per raccontarvi un po' il carattere e anche la storia del personaggio. Una in particolare è all'inizio, è il 1901. Finalmente viene scritturato per cantare al Teatro San Carlo di Napoli il 30 dicembre, dove interpreta Elisir d'amore e Manon. Durante l'esibizione però viene tradito dall'emozione e non riesce a cantare al meglio. Deluso dalle reazioni e dalle critiche, anche se il pubblico più popolare lo aveva comunque acclamato, Caruso decise che non avrebbe mai più cantato nella sua città. Il contratto che aveva stipulato prevedeva anche altre apparizioni, dove le cose vanno in modo diverso, ma nonostante questa rivincita, la decisione di lasciare Napoli è ormai presa, e quando nel 1904 decide di comprare una casa in Italia, la scelta cade addirittura sulla provincia di Siena, più precisamente sul comune di Lastra a Signa, dove compra, restaura e arricchisce con numerose opere d'arte Villa di Bello Sguardo. Ed anche quando viene chiamato per beneficenza a Napoli, decide di donare solamente del denaro, mantenendo fede al suo giuramento. Thank you. Il 1902 segna un'altra tappa fondamentale per la sua carriera e forse anche per la storia della musica. Caruso decide di incidere dei dischi, cementandosi con una nuova tecnologia che ancora nessun artista aveva sperimentato, probabilmente spaventato dalle possibilità che la registrazione potesse modificare la voce. E così l'11 aprile a Milano incide 10 dischi con arie e opere per la casa discografica inglese Gramophone e Typewriter Company. La sua popolarità contribuisce non poco allo sviluppo dell'industria discografica, che grazie a lui riesce a convincere gli scettici, ma anche la facilità con la quale potevano essere distribuiti e venduti i dischi favorisce il crescere della popolarità di Caruso. E l'anno successivo, nel 1903, il tenore napoletano sbarca finalmente in America per l'esordio al Metropolitan di New York, da dove parte la sua carriera internazionale. All'inizio il successo raggiunto non è così travolgente come lo stesso Caruso avrebbe voluto, soprattutto perché la lirica d'oltreoceano vive ancora nel ricordo dei miti del passato. Il suo obiettivo è quello di essere considerato il più grande, ma i tempi non sono ancora maturi. Prima di ritornare si esibisce a Parigi, Barcellona e Londra, un vero e proprio trionfo, e spinto da questo successo interpreta Aida al Metropolitan, dove finalmente diventa definitivamente il grande Caruso. La sua forza non è solo quella di aver conquistato la critica e gli addetti ai lavori, ma di aver tradotto la canzone lirica in emozioni per il pubblico. Proprio questo rende la sua musica un fattore rilevante in ambito sociale, soprattutto per quegli emigranti che si identificano in lui. Tra il 1905 e il 1920 Caruso è il protagonista incontrastato della scena lirica di New York. Partecipa a più di 600 rappresentazioni, cimentandosi con tutte le opere liriche più belle e più famose. Inoltre organizza anche dei concerti per un pubblico più vasto e meno colto, in cui esegue un vasto repertorio di canzoni napoletane. Infatti, nonostante Caruso sia sempre rifiutato di cantare a Napoli, a seguito della cocente delusione del 1901 di cui parlavamo prima, il suo attaccamento alla città e le sue origini rimane intatto, e pur essendo un cantante di musica lirica, non dimentica mai di essere figlio della tradizione dei posteggiatori e contribuisce in maniera decisiva alla diffusione della canzone napoletana nel mondo, soprattutto grazie alla possibilità che gli dava l'incisione dei dischi. Infatti, fuori da salotti e da teatri, Caruso cantava sempre canzoni napoletane, tra cui Torna a Sorrient e Io ti vorria vasà. Difatti porta nel mondo tutte le canzoni napoletane nascenti che inserisce nel suo repertorio, dando spazio ad artisti emergenti come Mario, Tagliaferri e Cavaldo. Strappava ingaggi molto elevati per cantare nei teatri e nei salotti, ma aveva sempre il tempo per cantare gratis canzoni napoletane, allietando gli emigranti. La prima canzone, incisa su disco nel 1909, è Mamma mia che vuoi sapere, scritta da Ferdinando Russo e musicata dal maestro Nutile. Insieme a questa ci sono altre 21 canzoni, tra le quali Canta per me, Guardana l'uno, Soltanto a te, Scordamo, Occhio celeste, Perché, Tu canucchiagne, Cor ingrate, e adesso ci stiamo ascoltando Fenestre calucive del 1913. Adesso veniamo ad un'altra nota dolente della vita di Caruso, perché è piena la sua vita di momenti drammatici. Uno più importanti, tra i più importanti, è quello che vedrà finire bruscamente l'amore con la moglie. Infatti, quando la donna decide di scappare con l'autista, cercando anche di estorgere del denaro a Caruso, la vicenda finisce davanti ad un giudice che condanna la Giacchetti a 3 mesi di carcere e 100 lire di multa. Di questa storia, quello che resta oggi è Tempo antico, l'unico brano scritto e musicato interamente da Enrico Caruso, che poi ne affidò la traduzione in inglese al regista teatrale R. Carroll. Nel testo traspare tutto il dolore e la delusione per la fine dell'amore con la moglie, e io volevo farvelo ascoltare perché è veramente qualcosa di incredibile. E dopo una lunga tournée in America cominciano ad affiorare i primi sintomi del suo male. L'insonnia e i mal di gola si fanno sempre più pressanti. È costretto a interrompere la rappresentazione di Elisir d'Amore perché colpito da un'emorragia alla gola. Mentre canta inizia a sputare sangue. È inevitabile il ricovero e l'intervento chirurgico che lo costringono ad un periodo di convalescenza. In un paio di anni le condizioni del tenore, al quale viene diagnosticato un ascesso tra diaframma e fegato, si aggravano ulteriormente, rendendone impossibile l'intervento chirurgico. Caruso viene trasferito all'Hotel Vesuvio a Napoli, dove muore il 2 agosto del 1921 alle 9 del mattino, all'età di 48 anni. I funerali furono celebrati in una piazza del plebiscito stracolma, mentre in America il mito di Caruso, che era già forte quando lui era in vita, cresceva sempre di più. A Napoli il suo ricordo, diciamo, si affievoliva col tempo, e nel 73 viene organizzato un concerto al San Carlo in suo onore, mentre nel 1976 viene costruito un suo busto in piazza Otto Galli, nei pressi di quei vicoli che l'avevano visto crescere, mentre negli Stati Uniti era già nato l'Enrico Caruso Museum of America. Ma veniamo a quello che più ci interessa. Il rapporto con Napoli nella vita di Caruso è un legame indissolubile. Il fatto di essere nato e cresciuto in questa città resta nella sua carriera, nella sua vita, impresso per sempre. Caruso ha interpretato la canzone napoletana in un momento storico molto particolare. Napoli passa da capitale di regno fino al 1861 a periferia del regno. È un momento in cui si cerca di affermare la canzone in lingua italiana, e Caruso invece è fermamente convinto di voler continuare ad interpretare la canzone in lingua napoletana, facendolo in una maniera incredibile. Essere un cantante lirico che entra nell'immaginario popolare, forse una delle prime pop star internazionali, che lo porta a diventare figura di identificazione di migliaia di napoletani in giro per il mondo. Infatti la sua immagine è importante soprattutto per i migranti napoletani in America, che vedono e sentono in Caruso qualcuno che li possa rappresentare con orgoglio in territori dove vengono sfruttati e malpagati solo perché considerati stranieri. Quello che vorrei sottolineare è che l'interpretazione di Caruso è quella di una Napoli malinconica, una Napoli crepuscolare, tragica, come è stata la sua vita. Il rifiuto di esibirsi a Napoli è un qualcosa che ritorna costantemente. Infatti tutte le canzoni napoletane interpretate da Caruso hanno un significato drammatico, anche la più importante, la più famosa, O Sole Mio, una canzone che ha una storia particolare e che ci dice molto sulla storia della canzone napoletana. La musica, ad esempio, venne composta dal maestro di Capua, che si trovava in quel momento in Russia, ad Odessa, e guardando il golfo di Odessa pensa a Napoli. Difatti O Sole Mio, per quanto venga collegata al carattere gioioso e solare dei napoletani, nasconde una malinconia che è senza di questa città. I versi «Quan fa notte o sole se ne scende, mi viene quasi una malinconia, sotto la finestra tua resta ria, quan fa notte o sole se ne scende», sono i versi con cui si conclude O Sole Mio, esprimono la tristezza di una città la cui storia è drammatica e ricca di violenze e sangue. Pensate che O Sole Mio è del 1898, un secolo prima del 1799, quando un'intera generazione di rivoluzionari napoletani venne sterminata dall'esercito francese nel tentativo di proclamare l'indipendenza della Repubblica Partenopea. Sempre che ti sbatte sempre, vuoi vincere sempre, tipo una volta, copi pa sempre, si cicilile-n vanie. Așa-n oană ca mine zuleți. Mă bat în un joc abadent. Abri ma bote, stai ghinejal. Abri ma bote, stai ghinejal. Ană forma de stai ghinejal. Tengu nu-n soția ca stai ghinejal. Faci vreo cezare. Mai nu fac lută în semești. Să arasești, nu mă îndăroz o babie. La ne gabila mă stie. Te cu bișada, familia vreți. E come avete sentito adesso si cambia musica, perché passiamo da Enrico Caruso all'altro murales di che vi raccontavo, che si trova proprio ai quattro vie, quello enorme di Vale Lambo, che in realtà è Valerio Apice, nato nel 1991 a Secondigliano. Non ha mai lasciato questo quartiere, nemmeno quando come Vale Lambo ha iniziato a diventare qualcuno nella scena hip hop, prima napoletana e poi nazionale, formando il duo delle scimmie che stiamo sentendo con Lele Blade, poi come solista e poi col collettivo SLF, acronimo di Siamo la Fam. Lambo è il suo soprannome, che deriva dalle passioni per le auto di lusso che sono anche raffigurate in questo murales che vi invito ad andare a vedere alle quattro vie. Ora che è andato a convivere, si è spostato appena un po' verso Miano, ma la sua base, la sua casa resta quella, Secondigliano. Metta filo fuori ristorante pure, come visto giuro su, ma visto chiuro su. Fa una cosa, chiama chi lo sta ritto che no. Tornare da vire chi sta che po'. Contro mano siamo biondo un colpo mezzo, wey. Guarda sta mano, fotremo, un bacio stiamo di mo. Lele cava, sa chi ninja, già sai chi sim. Tanta sacrificio, non ci stai vicino. Tu parla, sai marisce, solo bushi. Te sei cinque scigne da una cucina. Sfuso in dei sacchi, non do porta foglia. Ragione, ragollera due. Carun e killer, ragollera. Mi trovo modelle fa senza troppi casini. Stanna rete spalla. L'hanno combinato, l'hanno fulminato. Come guardia rete, ne ho 30 Audi A4RS, ciao. Sim atleta, vuoi già per far falla. Già per far falla, ne vedi. Allora, quello che un po' ritorna, e anche quello un po' che viene raccontato delle canzoni di Vale Lambo, è che si spara e si muore, così come nell'incipit di In Faccia o nelle successive Up Samp. Il suo flow è un insieme di strada e melanconico, crudo e romantico, perché non si può essere cinici per sempre, come dice lui. Nel suo quartiere Secondigliano le leggi non le detta lo Stato, lui le conosce e sa che per sempre sono i ricordi, qualche volta le canzoni. Il suo racconto feroce e temperato è reso originale dalla voce di dentro che gli scappa, dalla capacità di guardare il film della propria e altrui vita senza restare prigioniero della mitologia rap gomorrista. Uno sguardo a una ragazza può diventare uno sguardo, può essere una condanna a morte, la cronaca nera degli amici come Houdini, e oppure la cronaca rosa degli amori consumati senza sapere in realtà quanto dureranno. Torna a casa, faccio e pure al vicino. Mangio strude con le mele, cannella, cannino. Faccio su per la mia banda larga. Connessione con il cielo, nuvola bianca. Comprensione fra Vangelo, c'ho l'acqua santa. Benedico tutti quanti con la mia sostanza. Vengo da Genova, rivedo tra passati blocchi. Fate appena faccio scuola, sentire in tocchi. Campanella, ringrazione, paese, leva l'occhi. Cocoledo fra il paese, cima dei balordi. Faccio wave, faccio strada lungo lo stivale. Con la carena cromata perché ci so fare. Con il typhoon dappertutto, pure in via la Tea. Che ho la crema nella mano perché sto in crimea. Facciamo wave da prima di voi. Giochi le schede mi girano poi. Già sapevamo tutte queste storie. Quando rappiamo eliminiamo scorie. Pire con me, prova sta preda, poi fammi sapere. Vega ragazzi, se fu bravo con me. Non perdo tempo, già sanno perché. E visto su carretta vai con noi. Prendo la strada che lucca una fuori. Prima valigia poteva fare. Sai chi vuoi pagarti con me, vuoi pagarti con me, vuoi pagarti con me. E atteggiamenti, diciamo, gangsta, come avete sentito, non mancano, come i macismi di turno e il catalogo delle marche in cui il girone rap cerca ormai da troppi anni la vendetta per la povertà in cui ha messo radici senza che nessuno la annaffiasse. Ma poi spunta fuori, diciamo, anche un cloud rap con le sue atmosfere melanconiche, confini con la trap più emo, soprattutto nei testi in italiano, ma non solo. Le questioni sentimentali rubano spazio alla guerriglia di quartiere. ci sono alcune canzoni che mettono in evidenza anche strumenti non tradizionali nella produzione trap. C'è qualche pezzo come Omare che viene paragonato all'amata madre. Nammurata te, per esempio, è un pezzo che trova il coraggio di cantare mettendosi in panni femminili, smontando nel modo più potente possibile le accuse di maschilismo ed omofobia, che sarebbe bello comunque vedere scomparire in generale. Ma quello che un po' ci interessa è che Vale Lambo è sbocciato in piena primavera del rap napoletano, in un momento d'oro per la scena locale, e se in passato l'uso del dialetto ha sollevato dubbi sull'accessibilità e la diffusione del rap partenopeo nel panorama nazionale, oggi la discussione appare del tutto superata. Il dialetto non è più percepito come un ostacolo, ma un elemento che aggiunge autenticità e un simbolo di radicamento culturale. Dammi un strong e Bahamas, novembre 36 grada. Piglio Batman, riesce Badana. Sei rimasta secca Sahara. Niente, bitch, pare che l'ani. Hada, shara da Naudi. In da playlist dedica Timey. Enzo, Steven da Matis. Non è l'Americo, studia NATO. Safari, bucket, camo. Tengo stripper in da l'iPhone. Stata corta, non bazzia con me. Troppi sport, tenga torna. La dimostrazione di quello che stavamo dicendo sta non solo nel numero crescente di artisti napoletani al vertice delle classifiche degli ascolti, ma anche nello spessore e originalità dei loro progetti. Tra i primi protagonisti di questa fase spicca la SFL, di cui ho già accennato prima, composta da Killa, Blade, Snap e Bez, e appunto Vale Lambo. La crew ha creato un'identità musicale coerente, capace di fondere talenti diversi in un progetto collettivo, e questa alchimia è evidente nel loro ultimo mixtape With Squad Volume 2. Napoli è in grado di raccontarsi in maniera autentica, quindi attraverso il rap, al di là di narrazioni superficiali. Hanno acceso a Totoro con una botta sola. Hanno acceso in notte, piglione nell'ambraccio, levo scorna con. Se mi tradisce levo scurna in dell'anzola. A piccio cariglion, camo esce solo. A ballerina gira gira sempre stesso posto. Vada non gira solo, a gira pure io ma giro mu. E vega che stanno a girare quando ha preso i sordi. Perché ne ho vera che gira ma ha preso i sordi. Era meglio prima, ma bastavano gli spicci. Teneva una lira, teneva più un amico, a chi lo barco. Ma mamma chiamava e finiva giornata, a chi lo ballò. E vincerà forza perché chi perde vale non perde mai. L'hanno acceso mo è per sempre, mo pulezza è lento perché l'ha già pure meglio. Per sempre, non ricordo è per sempre. Si ti dico che siamo io, ma è per sempre. O sai che sono prima e che l'è per sempre. Per sempre. Non ricordo è per sempre. E posso pure muri. Non mi lasciare se no faccio puri. O ricordo tu e rimane per sempre. Scrivo una canzone che l'è per sempre. E posso pure muri. Faccio un figlio tanto moro primi, fa vera vita proprio come guardi. Scrive una canzone che l'è per sé. Allora, vediamo all'esperienza di SLF, siamo la FEM. Nel rap contemporaneo, diciamo, in Italia e non solo, il concetto di collettivo è sempre più raro. SLF ha scelto di portarlo avanti con determinazione. Tutto ciò avviene in un contesto unico nel panorama italiano come quello della città di Napoli, dove nella scena rap, soprattutto quella più giovane, c'è un senso di solidarietà e coesione difficilmente riscontrabile altrove. È una mentalità che appartiene alla città di Napoli, ma è anche una necessità. A condurre il tutto c'è il fatto che a Napoli non esiste un'industria musicale strutturata come ad esempio a Milano. Quindi questi ragazzi hanno costruito una nuova modalità di produzione, facendo forza l'uno sull'altro e anche, diciamo, su aiuti storici e su forze storiche della, anche io direi, anche della malavita in città. Un esempio però è la capacità di variare dai brani più legati alla tradizione dello street rap ai pezzi più radiofonici a tema sentimentale, dove Napoli è sempre presente sullo sfondo. A volte emerge come protagonista. Ad esempio, un pezzo che volevo farvi ascoltare in particolare è Navita Nance, che è proprio di questo collettivo, che è uno dei brani più profondi e interessanti che questo gruppo ha prodotto, e racconta delle tante morti innocenti che ci sono state soprattutto negli ultimi anni a Napoli. Allora ce lo ascoltiamo un attimo, Navita Nance. Sempre stata lorda ma banca, mai donuto un angelo a fianco. Macchine lusse, collana rossa, faccio pensieri sbagliati. Scusa ma si è già sparato. Volesse tornare, però non torna a casa. Sempre stata una di tante, non respiro l'aria ma manca. Tenevo un sonno, tenevo un nome, tenevo la vita annanza. Scusa ma hanno sparato. Sono di sender, o cuore si è fermato. Faccio pulito, mani sporche sangue. Chi l'era a 15 anni, la vita perde valore, l'aria si fa pesante. Cresciuto che miti sbagliate, l'esempio rubate. Che state già rinde, che a casa pare fatta costante. Parto un colpo che spezzo silenzio. Per fare esperienze, mezza vita, metto fine all'esistenza. E una bella gianna nato figlio martire. Sta società che margine, che buone danno. Premi a chi insomma merda. Non basta troppo pevole per cagni cose. Esordo un po' una catta che non tiene costo. Per chiede che sta strada giusta di non ti risposto. Chi vuoi fa bene, rinda vita, un po' ricevere l'opposto. Vivo pericolo come abitudine. Porto un fiero a lingua e tessera battitudine. Cercato potere, penso essere invincibile. Yeah. Ma posso trovo solo, da feriti inguaribili. Yeah. Scuso ma, scuso pa, scuso ti, scuso fra. Scusa ma mio padre che è caduto in terra. Scuso che alla fine aiuto come te pensavo. Scuso pa, ho stascicato tutti, scuso non ti servono. Tanta forza era diventato giocatore. Eppure Giorgio era diventato musicista. Mi sto diventato detenuto, prevenuto. Mun mi è caduto un gol e sto su lì a nessuno is. Ho sto in terra per via l'intempere si aggrumisce. Sta pistola tutto sto su l'ora rugginisce. Mamma con tutto il colore che piglio muore prima. Papà non mi difende nonostante sono mio figlio. Scusa ma uso me come un esempio. Ma non tengo futuro, ma solo passato e presente. Ma papà e mamma, mamma un esempio. Sempre stata lorda ma banca, mai donuto un angelo a fianco. Macchine lusse, collana rossa, faccio pensieri sbagliati. Scusa ma si è già sparato. Volesse tornare, però non torna a casa. Sempre stata una di tante, non respiro l'aria ma manca. Tenevo un sonno, tenevo un nome, tenevo la vita annanza. Scusa ma hanno sparato. Ho sono di sender, ho cuore si è fermato. Siamo vittime carnifici. Tu sai distinguere o bene o male. Dipende da come si state educato. Passa veloce, precoce. Mezzo avvio, segna la croce. Guagliuno senza voce, prese mira. Ti sbaglio, buono lieto, fino a mani uscina. Ma in realtà tiene quasi sempre un finale atroce. E non è normale che chi studia, chi fatica, fornisce 3 metri sotto terra in tutta auto e nuce. Nessuno te salva, nessuno te sa terra, si non fai tu. Ti muovo pure aspetta che cagna. Nessuno pensa a te, se non ci pensa tu. Prima che fai, quando pierda fede, ta in savanna, non so tu guardare. Sti strade sono fredde, nessuno capisce. Quando costa una vita, arrivi 18 e po'. Io giocavo pallone con un vaglio nei cor. Chi devo bene, poi sempre qualcosa. Caccia pistola, siamo sporca life force. Mamma ne paga. Meglio si mano fuia. Io non so come loro, loro non so come noi. Napoli vuoto fa male, ma non è colpa soia. Forse ci mancano state, oppure si manuia. Sono mai stato una di tante, non respiro l'aria ma manca. Tenevo un sonno, tenevo un nome, tenevo la vita annanza. Scusa ma hanno sparato. Ho sono di sender. O cuore si è fermato. A questo tema si lega una narrazione unidimensionale a cui spesso i media ricorrono nel raccontare Napoli. La città viene sempre ridotta a uno stereotipo sia quando la si criminalizza che quando si fa un ritratto folcloristico. Il rap pare essere uno dei pochi spazi in cui la città riesce a raccontarsi in maniera a volte autentica. È importante raccontare tutti i lati della nostra città, e da qualche anno Napoli vive un periodo florido della sua rappresentazione grazie al turismo, ma è necessario mostrare la complessità della nostra città, cercando soprattutto di rappresentare i ragazzi che la abitano. E allora, altre due parole proprio sul collettivo SFLF, che con Wiscode 2, che viene definito dai rapper un mixtape, eppure il progetto ha la forma di un vero disco. I mixtape erano un prodotto tipico del mondo rap dei primi anni 2000, sostanzialmente compilation di brani in cui venivano utilizzate produzioni non originali e che dunque venivano distribuiti in un circuito parallelo a quello della musica ufficiale. La SLF riesce dunque a unire questa modernità e tradizione in una commissione dal sapore, diciamo, contemporaneo. Per veicolare il concetto di mixtape e legarlo alla napoletanità del gruppo, sulle pagine del collettivo sono stati pubblicati due brevi video che raccontano la storia dei contrabbandieri nel porto della capitale campana. I contrabbandieri vengono descritti come gli hustler di Napoli, persone che dal niente si costruiscono un proprio modo di sopravvivere. È una storia molto hip hop, anche se avviene in un contesto diverso. Il tentativo è quello di costruire ponti che raccontano la stratificazione dell'identità della nostra città. Te vedo già da co dialetto, faccia duro per a to stival, e mo parlano dialetto. Tom tom, ehi, hey, io commento con, è fatta bar, tiene a barbalo, o marziano, cioccolato. E allora, arriviamo un po' alle conclusioni. Diciamo che Scampia, Secondigliano e tutta la atroce periferia napoletana, con i palazzoni di cemento che sembrano alveari umani senza anima e senza possibilità, sono i luoghi dove i trapper napoletani sono cresciuti, e la deriva che alimenta i loro testi è un'esperienza vissuta e non un artificio letterario. Sembra che Napoli recuperi le radici socioculturali della trap house americana, in cui stile di vita e rap erano la stessa cosa: amicizie salvifiche e traditrici, amori appassionati e primitivi, pistole e sangue, vite deragliate e condannate, le leggi della strada e il rispetto da conquistare, un'umanità autentica, estrema e intimamente dolente. Queste le realtà vissute e interpretate dai trapper del Vesuvio, e questo fenomeno musicale non è così estemporaneo o nuovo come in molti vorrebbero farci credere. La trap si innesta su una lunga tradizione e declina in modo innovativo i temi antichi della musica popolare partenopea. Come afferma lo stesso Vale Lambo, le nostre canzoni sono vicine di casa, di strada, di vicolo, di origini. Mario Melora e Mauro Nardi si appartengono almeno quanto Tupac e Nas. Sto portando a we blue ball, c'è chi dama, stonga che è surdata, recco, kamikaze, scendi in maggia Mike, let's go, waka flaca, sta morendo blaca, scegno, c'è chi dama, tu non ci vira più mo, o si ci vira lontano, sono una luce che brilla mai, se ne capite quando stiamo volando, yeah, tengo i frati, brindo vanno, che fanno luce in dorato. Dunque, radici neomelodiche da un lato, anche se nessun cantante ama definirsi neomelodico, tutti si sentono cantanti napoletani, e rap politico e sociale dall'altro, si pensa ai Nove Posti, ai Cosanghi e alla famiglia. Ragionare della trap partenopea vuol dire necessariamente comprendere la complessità di tutta la storia della musica napoletana, guardare con attenzione ai fenomeni socioculturali che la sottendono, non per arrivare a giudizi definitivi, ma per vedere che non tutto è come sembra, non tutta la città è piena di turisti. La sua drammatica esistenza è ancora l'essenza creatrice della realtà che la compone. E noi non vogliamo vedere Vale Lambo e Enrico Caruso contrapposti, come se il passato sia sempre meglio del presente. La città non è una sola cosa, è stratificata e produce diversi significanti. La musica classica napoletana è uno di questi, così come la trap. E noi vogliamo attraversare tutti questi mondi, perché sarà passato anche un secolo tra Caruso e Vale Lambo. La città e la musica sono necessariamente cambiate, ma entrambi sono espressione di Napoli, della sua tragica storia che non si vuole raccontare. Solo così possiamo vedere Piazza Otto Calli e Quattro Vie non troppo distanti, così come i due murales di Enrico Caruso e Vale Lambo, figli della stessa città, della stessa storia, della stessa lingua, che ci piaccia o no, vicini e non contrapposti, perché napoletani. chi dama, stongo che è surdato, becco, kamikaze, scendi in maggia Mike, let's go, waka flaca, sta morendo blacca, scigno, genki dama, E allora siamo alla conclusione di questo Ponte Radio, che ha visto sia un aggiornamento sulle lotte in città, in particolare quello che era successo con i disoccupati 7 novembre. Abbiamo avuto un aggiornamento, fortunatamente dopo gli scontri di ieri i compagni arrestati e processati per direttissima sono stati rilasciati, ma molto probabilmente ci sarà un continuo del processo il 10 ottobre nonostante le accuse di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale siano cadute. Ma il Ponte Radio, che è un'opportunità per Radio Neanderthal di essere ritrasmesso nelle varie radio indipendenti, nelle nostre carissime amiche, è un'opportunità anche per quello che succede in città. E quindi, oltre ai momenti di lotta, c'è un qualcosa che vogliamo farvi sentire, un po' un fuori programma di questo Ponte Radio, così come l'avevamo programmato, perché ci è arrivato un contributo di un'iniziativa che c'è stata negli ultimi periodi a Napoli. In particolare qui a Santa Fede è stato presentato un opuscolo sull'impatto che MSC, ovvero una delle più importanti compagnie di navi da crociera in città, hanno proprio sulla città e sul porto. E allora noi vi salutiamo con questo contributo che giunge da questi compagni che hanno redatto appunto questo opuscoletto, e vi ringraziamo per l'ascolto, e sempre grazie a tutte le radio che ci permettono di trasmettere e raggiungere degli ascolti inimmaginabili. Noi, io, Aramis e il Metallo, vi salutiamo calorosamente. A presto, adesso vi facciamo sentire questo contributo e il Ponte Radio poi finisce qui. Un saluto e a presto. L'idea di elaborare un opuscolo sugli impatti di MSC a Napoli nasce da un confronto collettivo che dura da circa un anno e mezzo, e un confronto che ruota intorno innanzitutto alla logistica militare, al tentativo di riflettere anche su cosa significa logistica militare e come si può contrastare in un'epoca di guerre e genocidi la logistica che garantisce il flusso, il trasporto di armi in un'economia di guerra. Direi che il primo tentativo anche importante sia stato quello di ragionare su un opuscolo su questo, dal titolo La guerra comincia qui, e che da qui è nato un confronto, un discorso, un ragionamento per riflettere su gli attori economici che agiscono sul territorio, anche se difficilmente hanno mostrato il loro volto al territorio, e il loro impatto, gli effetti delle loro appunto logiche di accumulazione, delle loro strategie di accumulazione sul territorio. Questo anche sulla scia di quello che in altri paesi, come per esempio la Danimarca, sta avvenendo da un po' di tempo. Per esempio in Danimarca c'è da molto tempo una campagna insomma, critica e denuncia del ruolo della compagnia marittima multinazionale Maersk e del suo appunto ruolo nell'economia di guerra, nel trasporto di armi in Israele, ma non solo, anche nei teatri, altri teatri di guerra. E quindi noi abbiamo, anche su queste sollecitazioni provenienti da altri luoghi, provato a elaborare uno strumento agile che fosse anche un po' un mezzo e non un fine, per poter riflettere insieme su quali possono essere gli effetti di una compagnia marittima simile a Maersk, se non diciamo più complicata, per tutta una serie di motivazioni legate alle caratteristiche specifiche di questa compagnia, tra cui la scarsa trasparenza, e quindi cercare un attimo di capire quali fossero gli effetti, quali fossero le strategie, quali fossero i risvolti di questa dell'azione economica di questa compagnia marittima, che è appunto MSC, su Napoli e sull'intero territorio. E da qui abbiamo provato un po' a fare una ricerca anche sulla base di informazioni acquisite nel corso degli anni, perché tra noi c'è chi si occupa di questo da molto tempo, che studia appunto la logistica in senso lato, quindi appunto la gestione dei flussi. Abbiamo ritenuto appunto necessario riflettere su chi governa questi flussi, e tra le persone, tra le compagnie marittime che governano questi flussi c'è MSC, che sta per Mediterranean Shipping Company, una grossa compagnia marittima leader globale dello shipping, molto conosciuta soprattutto per il segmento legato alle crociere, ma altrettanto importante per quanto riguarda invece la parte del cargo, quindi della commerciale, del trasporto di merci in tutto il globo. Quindi abbiamo provato un attimo a mettere insieme i pezzi di un puzzle estremamente complicato, e ci siamo resi conto di trovarci di fronte a una grossa compagnia, una grossa multinazionale governata appunto da questo capitano d'industria che si chiama Gianluigi Aponte, e che raramente ha mostrato capacità di trasparenza rispetto al suo operato. Stiamo parlando di una famiglia, la famiglia Aponte, originaria di Sorrento, che però ha il quartier generale con la sua compagnia marittima MSC in Svizzera, a Ginevra. Una famiglia che ha accumulato un capitale enorme negli ultimi anni, soprattutto con la pandemia, una compagnia che ha acquisito nel tempo altre imprese con altri nomi, attraverso anche tutta una serie di strategie aggressive di conquista di mercati che hanno a che fare appunto con la logistica, ma la logistica è intesa anche in senso più ampio, quindi la parte retroportuale, la parte legata al trasporto di merci negli hinterland di mezzo mondo, il controllo dei porti in Italia, e non solo. MSC controlla dei porti italiani come Napoli soprattutto, ma anche Gioia Tauro, Genova e altri porti in Italia, ma anche in Europa. Stiamo parlando comunque di un colosso che ha investito moltissimo negli ultimi anni nell'acquisto di nuove navi, nella costruzione di nuove navi, nell'acquisizione di terminal portuali e nella gestione anche di terminal retroportuali. Quindi una compagnia che controlla di fatto tutta la filiera del trasporto logistico, che si occupa di merci, ma si occupa anche di merci intese come anche di passeggeri, e quindi controlla una grossa fetta di flussi turistici attraverso le crociere. Basti pensare che se ci sono 3 crociere nel porto di Napoli, ci sono 15.000 turisti nel centro storico di Napoli. Basti pensare che se queste crociere sono nel porto, sono accese, quindi inquinano con appunto effetti sul territorio. Basti pensare che c'è anche un progetto di espansione del porto di Napoli verso la Darsena di Levante, e questo anche in seguito alla influenza che MSC, attraverso la sua controllata con Ateco, ha nei confronti del porto di Napoli e delle sue esigenze di espansione, secondo una logica che mira sempre più ad aumentare i flussi e a governarli. E quindi ci siamo ritrovati di fronte a questo colosso che appunto durante la pandemia è stato anche coinvolto nella gestione dei migranti, ed è stato coinvolto anche nella possibilità di acquisire ancora più capitali, accumulando molti introiti e profitti attraverso strategie precise in tempo di pandemia, quando appunto i flussi si sono inceppati. Stiamo parlando di una compagnia che ha acquistato Il Secolo XIX, il giornale di Genova, e appunto l'idea era quella di provare a dotarci innanzitutto noi di uno strumento di indagine che potesse favorire una discussione collettiva in prospettiva di una insomma riflessione politica più incisiva, che potesse in qualche modo cercare di scardinare gli effetti deleteri di questo colosso sul nostro territorio. E l'idea è stata un po' quella di mettere insieme tutte le informazioni legate appunto alla molteplice azione di questa compagnia e azioni legate soprattutto a questa molteplice strategia diversificata di questa compagnia, e anche per riflettere con i gruppi, le organizzazioni, i collettivi che già agiscono sul territorio, ragionare insieme su possibili forme di contrasto e di azione per poter quantomeno mettere in discussione dei fenomeni che sembrano apparentemente ineluttabili, come appunto gli effetti negativi che un colosso multinazionale del genere genera quotidianamente sul nostro territorio e che comunque agisce in un contesto molto opaco, non mostra il volto così facilmente, a differenza di tanti altri capitani di industria. Pensiamo a un Bezos, pensiamo ad altri attori economici che sono quotidianamente insomma alla vista di chiunque, anche per l'opinione pubblica. E la nostra idea era quantomeno fornire un mezzo per poter iniziare a riflettere su questi temi insieme. Sono dei temi che ovviamente sembrano trasversali, sono molto complicati tra loro, hanno a che fare con diverse questioni e ci sembrava meno interessante provarle a mettere in ordine, a metterle un attimo, a socializzarle certe informazioni per poter ragionare sulle possibili forme di azione per avanzare un attimo in una direzione che si opponga a dinamiche che sono sempre più inaccettabili e sempre più insostenibili, quindi l'inquinamento del nostro territorio attraverso l'utilizzo delle navi e delle appunto inquinamento delle navi che possono essere appunto le navi da crociera, l'espansione dell'area portuale verso est alla luce di un territorio che non ha accesso praticamente al mare pulito e a spiagge libere, quindi a fronte di una mancanza oggettiva, strutturale di balneabilità, di mare accessibile nella città, assistiamo a un progetto di espansione portuale che mira appunto ad aumentare i flussi di merce e quindi i profitti di queste grosse multinazionali. Qui sono temi molto complicati e abbiamo provato a metterli insieme in un opuscolo agile che potesse essere appunto facilmente reperibile, facilmente distribuibile, anche allo scopo di riflettere insieme su questo processo, su queste dinamiche. Quindi diciamo così, l'idea era fornire un po' fornirci di uno strumento affinché fosse un mezzo piuttosto che un fine, cioè diciamo fare un lavoro che fosse appunto non finale ma propedeutico a un'azione a venire e da costruire collettivamente.